sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il pubblico ha corso a incoraggiare la squadra del Record a Vigo d'Arzere e che affolla gli spalti del Palacertosa. Accompagna in un boato crescente i tre minuti impiegati da 13.274 stecchette a bassa lingua di legno per esplodere una dopo l'altra. Sono Deborah, vivo a Vigo d'Arzere, al confine nord-ovest di Padova, sulle rive del fiume Brenta. È un paese di 13.000 anime, 4 frazioni, 4 chiese. La mia passione segreta è la radio e sono felice di essere qui. In realtà Deborah non la racconta tutta, perché la sua passione segreta sono le stick bomb. Ecco, ora io vi chiedo per questa mezz'ora, per questi 20 minuti di racconto, per questi 20 minuti di Voi Siete Qui, di concentrarvi fortemente, di ascoltare, di starmi vicino, perché oggi racconteremo una storia che sembra arrivare dall'altra parte del mondo, invece arriva dal nord-est di questo paese e che parla di stick bomb. Segnatevi questo termine perché oggi scoprirete che cosa significa. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui e noi raccontiamo storie, lo facciamo tutti i giorni alle 16 in diretta dal lunedì al venerdì, proprio 16 non proprio, 16 e 7, 16 e 8 minuti più o meno, tanto è partita una mail che dovevo far partire, scusa Paolino, so che mi dici sempre di abbassare il volume del computer, ma è partita una mail, un imbarazzo orribile. Dicevamo, la storia di oggi, la storia di Deborah parla di qualcosa che è magnificamente inutile e che pure insegue, è come se, se avessimo ognuno di noi nella nostra testa il desiderio di battere un record. Comincia da ragazzini. L'altra sera ne parlavo durante una serata con l'amico Federico Bernocchi, che ha fatto parte anche di un pezzo di questo programma, che raccontava di quando da ragazzini giocavi a quel videogioco nel bar, quando i videogiochi erano solo nei bar, quelli in cui ti ricordi, quelli, Tiziano, quelli in cui ti muovevi e davi colpi alla gente, fight qualcosa, fight vabbè, avete capito, Street Fighter, bravissimo, Street Fighter. E diceva che la roba fighissima del battere il record era che alla fine tu scrivevi il tuo nome in testa, che però erano tre lettere, erano solo tre lettere, no? E lui non so perché mi diceva, e il mio sogno era scrivere AAZ, perché non era solo AAA che era la prima roba, ma è che tu eri andato fino in fondo a cercare la Z, quindi diceva, oh, chissà chi è AAZ. Ok, quell'anima lì, quella di cui mi parlava Federico Bernocchi l'altra sera, è l'anima che c'è in ognuno di noi. Ecco perché vi chiedo di prendervi 10 secondi e di scrivermi qual è il vostro record. Sono sicuro che ne avete uno. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook è Voi Siete Qui Radio 24, il profilo Twitter anche a cui potete scrivere e a cui risponde sempre la solerte Miriam Lucchetti è Voi Siete Qui R24. Un record tipo, che so io, impennavo con la bicicletta per tutto il rettilineo del mio paese, oppure una volta io ho visto uno bere due bicchieri interi di sciroppo di menta, salvo poi vomitarlo chiaramente tutto di lì a poco. Il record della vostra vita, qualunque esso sia. 349-238-6666. Cerchiamo di condividere insieme questo momento di assoluta inutilità di alcuni pezzi della nostra vita, perché la storia che stiamo per raccontare parla proprio di quello. Tra l'altro quella di Deborah, devo dire, è un po' uno strappo alla regola, perché non è proprio una storia, una sorta di cronaca, una sorta di cronistoria di quel giorno in cui un po' di persone si sono messe insieme e hanno deciso di battere un record da Guinness dei primati. 349-238-6666. Quindi, ok, immaginatevela così. Siamo nella palestra di un paese che si chiama Vigo d'Arzere e ci sono un sacco di persone che hanno messo, avete presente il domino? Quello per cui i tasselli sono uno accanto all'altro, poi cade uno e tutto cadono gli altri. È una roba simile, ma si chiama stick bomb. Ci sono delle stecchette a bassa lingua in ballo e più o meno una farà cadere l'altra e ci sarà un grande festeggiamento. C'è un video di questa roba, tra l'altro, Miriam, io l'ho trovato. Se riusciamo a recuperarlo, lo mettiamo anche sul profilo Facebook, perché forse è la cosa più spettacolare. Vi ricordo, quindi, oggi parliamo di record. Se ne avete dei record particolari, 349-238-6666. Marco da Verona, ad esempio, scrive sveglio 25 ore. Già questo è un ottimo record. Mettere in bocca 18 fusilli. Sono proprio questi i record di cui abbiamo bisogno oggi. 349-238-6666. Siamo in provincia di Padova e ci sono tantissime stecchette a bassa lingua. Noi siamo 65, tra bambini e adulti. Ci vedete tutti nelle foto allegate che pubblicheremo a breve. Questa è la nostra storia di entusiasmo, collaborazione, ma anche di ansie e di gioie condivise e di nuove amicizie intorno ad un sogno. Creare un'onda di stecchette di legno poggiate sul pavimento di una palestra per raccogliere fondi e soprattutto battere un record. L'idea nasce da un mio concittadino che si chiama Cesare, che ha una grande passione per i giochi cinetici, e un bel giorno mi chiama e mi dice che ha ordinato su internet una montagna di stecchette a bassa lingua di legno. Vuole tirar su una squadra e cercare di battere un record di Cobra Wave. Citazione: esplosione di gioia per la stick bomb italiana da Guinness. Lo scorso 24 maggio a Vigo d'Arzere, Padova, con l'esplosione ininterrotta di 13.274 stecchette a bassa lingua, è stato polverizzato il Guinness World Record giapponese di 9.911 stecchette. Si attende ancora la certificazione dell'ente londinese. Il pubblico ha corso a incoraggiare la squadra del record a Vigo d'Arzere e che affolla gli spalti del Pala Certosa accompagna in un boato crescente i 3 minuti impiegati da quelle stecchette a bassa lingua di legno per esplodere una dopo l'altra. Un grido liberatorio sottolinea poi l'entrata a canestro del pallone che chiude questo domino tricolore che inizialmente era fatto di 18.000 stecchette lungo 540 metri e disposto in 18 file, 17 curve e addirittura una salita di 8 metri. Ma non tutto è filato liscio al primo colpo. La corsa dell'onda in cui si sollevano periodicamente le stecchette incastrate tra loro, secondo la tecnica di posa scelta per l'occasione e detta Cobra Wave, si è arrestata per 2 volte. A causa di un effetto improvviso del colore rosso sulle stecchette di legno che le ha rese anelastiche. Per permettere ai giudici di certificare la vittoria, si decide di togliere dal campo di gara tutte le stecchette invalidate da quell'inceppamento e sostituire quelle rosse con delle stecchette neutre. I posatori si danno alla conta e alla posa. Si può procedere ad un terzo tentativo perché il numero di bastoncini rimasti a terra è ampiamente superiore a quello del record giapponese del 2012. La corsa ricomincia, questa volta ininterrotta. Quando abbiamo sganciato la prima delle 18.000 stecchette posate, la nostra Cobra Wave bianco, rossa e verde comincia a sollevarsi in onde successive. Il fiato è sospeso, gli occhi della squadra e dei 300 spettatori sugli spalti sono fissi al parquet e a ogni onda un boato di sollievo. Alla fine i due giudici di gara certificano che 13.274 sticks sono esplose consecutivamente e la sfida al Guinness World Record nella categoria Largest Stick Bomb detenuto dalla Mega House Corporation di Tokyo può dirsi virtualmente vinta. Per noi cittadini di Vigo d'Arzere l'attesa conferma del record da parte della commissione del Guinness World Record non sarà che la ciliegina sulla torta. Gli obiettivi fondamentali che hanno animato questo tentativo sono già centrati. Avere aggregato adulti e bambini intorno a un progetto ambizioso e divertente che ha impegnato mani, schiena, ginocchia, pazienza e attenzione. E soprattutto avere raccolto 400 euro in donazioni per aiutare le scuole del territorio comunale a rinnovare l'attrezzatura sportiva. Siamo stati stupidi a cedere alla miseria. E vi consiglio di vederla la squadra che ha polverizzato quel record sul nostro sito alla pagina di Voi Siete Qui ovviamente. Sono tutti con una maglietta blu e Miriam mi scrive che Deborah è quella con i capelli bianchi e gli occhiali sopra il numero 1 dello striscione con il numero 13.274. Intanto sono arrivati una marea di messaggi, devo dire, di record, l'abbiamo fatto per questo motivo questa puntata. Record polverizzati, Nicole da Perugia: a 3 anni ho finito un'intera confezione di ventolini in pastiglie per l'asma perché mi piaceva come frizzavano in bocca. Luca: 2 chili di carbonara fatta benissimo, spenti a calci tutti i lampioni di un vialone nel mio paese una notte prima che si riaccendesse il primo. Sempre da Verona: 2 litri di Sprite in 2 minuti e poi sono stato sveglio 43 ore a cavallo di un 31 dicembre. Insomma, 349-238-6666, ma noi abbiamo un record vero di cui parlare, che è quello di Deborah. Pronto Deborah? Ciao, ciao, sono Deborah, eccomi qua. Buongiorno, come stai? Bene, grazie, mani sudate. Non per le stick bomb ancora, semplicemente no, per la telefonata. No. Per la telefonata. Dove ti trovi Deborah? Mi trovo a casa mia, Vigo d'Arzare, in cucina. Benissimo, veniamo a noi. Allora, la prima domanda che viene spontanea è perché? Il perché però tu ce l'hai detto, giusto? Per un motivo di raccolta di fondi, giusto? Sì, esatto, in realtà è un mix, insomma, volevamo un po' divertirvi, trovare una scusa, esatto, per divertirci possibilmente in un gruppo numeroso, e va bene quella della raccolta fondi per le scuole, è un classico, ce n'è bisogno sempre. Debora, fate ancora le pizze tra voi 60 che avete fatto le stick bomb, oppure cioè, vi vedete a mangiare una pizza o... Allora, ci siamo effettivamente assolutamente trovati, sì. Ok. E abbiamo in programma di rimetterci in pista nel 2015. Un altro? No, che di che record si tratta stavolta? Ma vedremo, l'idea che sta covando è che rifare, diciamo, il discorso Tick Bomb, sì. Perché l'obiettivo principale nostro era di arrivare in realtà a 20.000, ma okay. Come visto non ha funzionato. Ho capito, c'è stato, insomma, sei inceppato a un certo punto e invece, esatto, e invece ci riprovate. All'inizio, esatto, vorremmo riprovarci, e questa volta magari con un gemellaggio con Minneapolis, perché in realtà il padre delle stick bomb si trova là, il re delle stick bomb. E ma nel senso che l'ha inventate lui, o è quello no. O è quello che ci guadagna vendendo stecchette per abbassare la lingua? Assolutamente non ci guadagna. Ma tra l'altro, semplicemente è un patto che si diverte. Perfetto, allora meglio così. Tra l'altro, scusami Debora, prima ci facciamo due calcoli. Quanto è costato comprare 18.000 stick bomb? Io direi che se i conti non sono stati sbagliati, cioè non sono un problema, dovremmo essere in realtà arrivati a una spesa di circa 400 euro, cioè quello che abbiamo raccolto. Benissimo, poi. Ok. Quindi insomma in realtà la natura di questo viene fuori, volevamo fare una simpatica cosa tutti insieme e, esatto. E battere un record. Mi dici quanto tempo ci avete messo a incastrare, anzi scusami, al volo, perché non ho tantissimo tempo, Debora, sì. Mi dici esattamente... Cioè, non essendo i cubi del domino, i tasselli del domino, come si incastrano insieme ste stecchette e che poi saltano? Allora, nel modello che noi abbiamo scelto, nel modello di posa, diciamo così, la Cobra Wave, di fatto sono, come vedrete dal video, incastrate a losanga, mettiamola così. Okay. Ogni stecchetta incastrata sotto un'altra è trattenuta dalla successiva. Quindi è un vero e proprio incastro di forze elastiche che si bilanciano, si azzerano tra di loro. Nel momento in cui fai sollevare, stacchi, diciamo, una prima dall'incastro, tutte le altre liberano la loro... energia. Il tempo di posa è stato, per queste 18.000 sì. stecchette, di un 5 ore, ma siamo stati un centinaio che ci siamo alternati sul pavimento, in realtà, insomma. Beh, poi benissimo. Quello che è rimasto il pomeriggio sono quelli che vedete nella foto. Debora, visto che arrivano un sacco di messaggi che lo chiedono, noi a breve carichiamo il vostro video su Facebook. Grazie, grazie ancora, in bocca al lupo. Ma grazie mille, grazie a voi. Ciao Debora. Ciao. Per capirci, Stick Bomb, evento da Guinness World Record a Vigo d'Arzere. Lo Stick Bomb è un gioco di strada fatto con mezzi poveri, la cui origine si perde in Cina, nell'antichità. Riemerge negli Stati Uniti negli anni 50. Si tratta di realizzare un domino di stecchette di legno incastrate tra di loro. Gli appassionati poi ne aumentano nel tempo la complessità, dalla composizione lineare a quella in 3D, introducendo il colore per un maggiore effetto nella fase di esplosione. Oggi si parla anche di arte cinetica. Voilà, questo è quello che si trova in rete se si cerca Stick Bomb su Google. Quando ho letto questa storia, la cosa che mi è piaciuta maggiormente è stata proprio la gioia scaturita da un'azione assolutamente inutile. Perché è vero che loro hanno raccolto dei soldi a scopo benefico, anche se in realtà ne hanno spesi altrettanti per comprare le Stick Bomb, ma lo hanno fatto comunque perché i giornali ne hanno parlato, perché qualcuno è andato a vedere lo spettacolo e perché quindi ha donato dei soldi. Ma la natura di questo evento pesca a mani basse nello splendido bacino delle cose belle e totalmente inutili. E le vedete, sono intorno a noi, ci abbiamo a che fare tutti i giorni e spesso sono erroneamente bistrattate in nome di una millantata funzionalità a cui tutto dovrebbe aspirare, tutto ciò che facciamo. Le cose inutili e possibilmente belle sono quelle che ci rendono in fondo la vita migliore. Provate a pensare a quante cose inutili, ma che vi rendono appunto la vita più bella, usate, fate o osservate ogni giorno. Penso, che ne so, alle auto di lusso, ad un'opera d'arte, ad una serie televisiva in 5 stagioni, a un maglione di cashmere, a un rovescio di Roger Federer, a un quadro di Miró o a un Guinness dei primati di stick bomb. In fondo le cose funzionali sono sopravvalutate. Sono quelle senza le quali non potremmo vivere, ma sono in realtà meno di quante pensiamo e per le quali spesso ci struggiamo. Una volta che abbiamo del cibo per nutrirci, un letto per dormire, un tetto per coprire e dell'aria per respirare, il gioco più o meno è fatto. Ma la gioia che danno certe cose superflue e belle è difficile da provare tra le cose semplicemente utili. È come se il semplice fatto che il superfluo esiste conceda anche a noi la possibilità di non agire sempre solo per un fine concreto e sensato agli occhi del mondo. Come se potessimo permetterci il lusso di camminare la mattina in un parco senza dover per forza portare fuori il cane o passarci per andare al lavoro. Perché se qualcuno ha speso del tempo per creare un oggetto, un servizio, o un film, o un disco semplicemente belli, beh, allora anche il tempo e il valore che gli diamo assumono un significato anche più intimo, più privato. Per cui anche se non facciamo una gara di stick bomb, anche se non possediamo un oggetto di lusso, costosissimo e bellissimo, anche se non ce lo possiamo permettere, col suo valore, con la sua bellezza, quell'oggetto non smetterà di ricordarci quanto le cose belle possano essere inutili e quanto l'inutilità possa essere un valore. E così, grazie alla storia di Deborah, oggi ho capito che primo, le stick bomb sono delle stecchette intrecciate tra di loro. Secondo, il Guinness dei primati è una bella cosa in cui entrare anche solo facendo saltare queste benedette stick bomb. Terzo, 13.274 stecchette a bassa lingua sono un numero esorbitante di stecchette, forse anche troppo. Quarto, battere i giapponesi in qualcosa comunque dà sempre soddisfazione. Quinto, devo farmi venire un'idea, una buona idea, per battere un record ed entrare nel Guinness dei primati. E se pensavate che le stick bomb fosse il record più incredibile che avete sentito, ascoltatevi questo al 349-238-6666 di fila, Dario da Vicenza, periodo di Naya. Ho visto tutte assieme le puntate di Twin Peaks in polveriera, dal tramonto all'alba. Il mio record è di 44 giri sulle gabbie, quelle nelle fiere dove entri, chiudi la gabbia ed usi il peso del corpo per farla girare, fatto nel 2004 a Padova. Mangiare un pacchetto di Big Bubble gusto classico in un colpo solo, poi sputare la palla in un foglio protocollo. Manuela Daman, perché non capisco l'ultimo pezzo. Tre volte ho fatto da capolinea a capolinea, tre volte, un'ora e mezza di percorso addormentato, dovevo scendere a metà percorso, guido la Genova e poi vabbè, chiaramente i delinquenti, tipo alzavo la moto a 120 km all'ora e mi facevo i chilometri senza mai abbassare la ruota davanti. Ciao penna gialla da Latina. Penna gialla sembra un nome riferito proprio al fatto che pennassi. Primi anni 80, videogioco Asteroids, record personale 136.000 punti. Il mio soprannome era Han, da Han Solo di Star Wars. Potrei passare il resto della giornata a leggerlo, ma purtroppo non ho più tempo. Chiudo con questo: ho mangiato 30 bounty formato grande in mezz'ora per sfidare il fidanzatino dell'epoca. Succedeva 30 anni fa, ricordo ancora la sensazione di malessere. E con questa sensazione che ringrazio Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Miriam Lucchetti, ma ringrazio soprattutto per la meravigliosa inutilità di quello che ha fatto la nostra Deborah. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Antonio, vivo a Firenze, la storia di domani è la mia e parlo di un mio giorno di gloria. Questa è la mia storia e io sono qui.